si riporta anche molto bene, vedi, a fare cose coxiche, creative. Comunque è Roberto Rettura, avete sentito la sua voce, benvenuto al Coxo. Ciao a tutti, grazie. Adesso magari riusciamo a metterti anche della musica di sottofondo. Il mio computer sta morendo, ha deciso che... Bene, anche lui, mi sembra che sia in tema con quello che si respira qui in questo studio di questi ultimi tempi, dal 2019. E comunque Roberto Rettura è qui perché la puntata di oggi sarà interamente dedicata ad un progetto che lo vede partecipe e anche fondatore. In qualche modo, anche se poi le fondazioni di questo progetto sono state un po' sparse per poi ricondensarsi nel corso dello scorso anno, che si chiama CASA, che è un nome, ma è anche un acronimo di cosa accade se abitiamo. Stefano? Sì. Sto cercando di far andare la musica di sottofondo. Sì, senza musica di sottofondo è un po' vuotina qui la cosa. È un po' vuota la faccenda. Vabbè, comunque noi coxeremo alla grande. E Roberto, facci sentire di nuovo la tua voce. Ciao a tutti, ho 200... non mi ricordo... 49 anni. Cioè, il nome c'è sempre che sì, porta bene. Avete una memoria breve peggio della mia oggi. Sì, e io per i numeri e le lettere, guarda, non ti dico. Avevo già anticipato a Roberto che almeno una gaffa puntata la faccio. Al momento ne ho già fatte due, credo, e quindi andremo anche per la terza. Ma allora, CD1 è su. Sì. Va bene, io continuo. Continuo. Io continuo e... quando non funziona niente cosa posso... ha fatto un bling. Qualcosa ha fatto, esatto. Un po' di suono è arrivato. Esatto. Ma Roberto, scusami, che cosa stai guardando? Sto cercando di fare mente locale su tutta una serie di informazioni attigue, diciamo, al nostro progetto, perché... So tante. Ho una pessima memoria, come ho detto prima. E sono sì tante cose che posso dire, ma non vorrei essere... Cioè vorrei dire... Come dire... Ho fatto anche una gaffa. No, vorrei fare un condensato magari di quelle che possono essere più interessanti, insomma. Poi comunque posso anticipare il blog? Sì, certo. Ecco, così magari uno nel frattempo inizia, se è curioso, a guardare, che si chiama il blog, il sito si chiama portodimontagna.it e lì ci sono tutta una serie di diramazioni del nostro progetto, quindi magari... E proprio a partire dal nome Porto di Montagna potremo andare un pochino a ubicare questo progetto CASA. Sì. Che ha un luogo molto specifico e c'entra proprio con il radicarsi in un luogo. Sì. Dico bene? Sì, sì, sì. Il progetto si sviluppa intorno al territorio di Ussita, del comune di Ussita, in particolare a Frontignano, che è una frazione di Ussita. Ussita è uno dei comuni più colpiti dal terremoto del 2016, anzi dai terremoti del 2016. E questo progetto nasce da... Non è facile descriverlo, perché le persone che partecipano a questo progetto sono persone che arrivano da percorsi e da proprio necessità diverse, e all'interno delle quali il progetto di casa in qualche modo riesce a racchiuderle, a fare una sintesi. Attualmente siamo sei abitanti, diciamo, di questa casa. E quindi, per ricapitolare, sì, c'è veramente una casa? Sì, c'è veramente una casa, che è un luogo... Che si trova ad Ussita? Si trova sì a Frontignano, che è una frazione di Ussita. Okay. Una frazione... Nelle Marche. Nelle Marche, in provincia di Macerata, sì, nell'interno maceratese, all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Luoghi che nel corso degli ultimi anni sono stati anche a rischio di svuotamento. Sì, diciamo che questo è stato uno dei temi, degli incipit principali che ci ha spinto in qualche modo ad andare ad agire su questi territori. E credo che sia stato forse uno dei punti comuni a tutte le persone che hanno deciso di partecipare a questo progetto. Come ti dicevo prima, le figure che hanno creato questa casa, in qualche modo, no, questa casa realmente, siamo io e Chiara, che veniamo da Bologna, e Fabio, che anche lui viene da Bologna, Patrizia, che abita proprio lì ad Ussita, Christian, che abita a Matelica, che è un paese vicino, un po' più a nord, sempre all'interno della provincia di Macerata, e Federica, che abita a Macerata. Mentre io e Chiara, diciamo, ci siamo avvicinati subito dopo il terremoto a questi territori per cercare di dare una mano fattiva a alcune associazioni che si stavano già muovendo. Uh-huh. In particolare abbiamo incontrato Christian, io non lo conoscevo, lo conosceva Chiara, erano amici d'infanzia, e loro stavano, Christian si stava muovendo attraverso un'associazione che si chiamava Io Non Crollo, che era di Camerino, e stava raccogliendo i primi aiuti, faceva raccolta di vestiti e di aiuti di prima necessità per la popolazione colpita dal terremoto. Così ci siamo conosciuti con Christian, e dopodiché abbiamo conosciuto, avvicinandoci più nel vero e proprio cratere sismico che interessa le frazioni, che ha interessato i comuni di Ussita, Visso e Castel Sant'Angelo sul Nera, e abbiamo conosciuto Patrizia, che è una vera e propria resiliente, una ragazza che subito dopo il terremoto, quando c'è stato il successivo sciame sismico che ha fatto sì che la Protezione Civile decidesse di delocalizzare in toto la popolazione, spostandola sulla costa perché non era in grado di, in qualche modo, di gestirne l'abitazione della popolazione stessa, diversamente dagli altri terremoti che ci sono stati in passato. Questo è un aspetto molto importante, perché ricordavamo anche prima l'Aquila, in cui ci sono state le tendopoli, in cui adesso ci sono delle case che sono state ricostruite, comunque la popolazione è sempre rimasta lì. Invece nel terremoto del 2016 abbiamo avuto c'è stato una sorta di spopolamento, seppur provvisorio. Patrizia, insieme ad altre persone, è riuscita, attraverso dei camper, molto banalmente, a rimanere lì, a occupare in maniera civile, diciamo, la zona camper di Ussita, e fare resilienza. Le altre persone questa sono... è anche un aspetto estremamente toccante di ciò che accade, perché il fatto che questi paesini, questi nuclei abitati, per quanto ci fossero delle porzioni di paese che comunque fossero ancora in piedi, siano state interdette agli abitanti stessi, o meglio, gli sia stata posta la questione: è per la vostra sicurezza essere delocalizzati, e questi, alla fine, se qualcuno della Protezione Civile viene a suggerirti di delocalizzarti, ovviamente te pigli e te ne vai, però senza una data, senza un appiglio, senza un ritorno. E questa cosa qui è sconvolgente. Sì, è stato abbastanza devastante per molte persone di qualsiasi fascia sociale, di qualsiasi età, dal pensionato che era in pensione, tuttavia non ha, come dire, stare in un albergo della costa marchigiana forse non era, non diventava così complesso da un punto di vista puramente logistico, a famiglie che avevano lavori magari neanche strettamente legati al territorio di Ussita o dintorni, a invece molti lavoratori come allevatori, agricoltori, che invece sul territorio dovevano per forza starci. Per cui sono nate anche delle storie molto particolari di persone che mandavano i figli a scuola a Civitanova per poi fare 100 chilometri e andare in qualche modo a tenere bada alle pecore, alle mucche, agli altri, diciamo, animali, o a coltivare, diciamo, le proprie terre, a mantenere vivo, insomma, il legame con la propria terra. Intorno a queste storie abbiamo iniziato in qualche modo tutti a circolare e a seminare l'idea che poi è nata in casa, cioè quella di creare un punto di riferimento dove alcune cose possono accadere. La declinazione che tu hai dato di cosa accade se abitiamo, in realtà, è quella principale. Se vai sul sito portodimontagna.it abbiamo anche alcune altre declinazioni, come cosa accade se accogliamo, cosa accade se ascoltiamo, cosa accade se allarghiamo, andiamo, arieggiamo, e per ognuna di queste declinazioni in realtà c'è una ramificazione di quello che in qualche modo stiamo cercando di fare. Per cui non siamo soltanto degli abitanti di questa casa, ma di questo territorio, ma siamo anche delle persone che vogliamo ascoltare, e lo facciamo attraverso delle conversazioni, e siamo delle persone che vogliamo andare in cammino e vogliamo camminare insieme alla persona del luogo. Siamo delle persone che accogliamo chi viene da fuori, come lo siamo in parte anche noi, mm-hmm. Attraverso delle residenze di alta quota, che abbiamo già iniziato a fare fin dall'inizio del progetto stesso. E io diciamo che potrei parlare per circa tre quarti d'ora, però io qui ti interrompo. Grazie. Perché sicuramente avremo modo di, adesso ci hai fatto un bel cappello di, sì, quello di cui tratta, e poi andiamo più nello specifico. Intanto io chiedo a Stefano di preparare come brano per interruzione. Non mi funziona niente. Non ti funziona niente neanche, cioè, a te. Il mio computer non, allora, è collegato a niente. Va bene. E non funziona. Caro Homo Mini Loops, che ci stai ascoltando in streaming domani quando la trasmissione sarà in diretta, perché fortunatamente stasera non puoi, sappi che anche questa volta il tuo contributo è stato un po' sabotato dalla tecnologia. E quindi sì, andiamo con un bel 45. Con 45 giri. Fammi un po' vedere. E il nostro coxo riprende tra un po' per riaffrontare tutte le varie declinazioni di casa, giustamente. Sempre no, perché ancora non parte. Va bene, questo 2019 ci sta mettendo veramente, veramente alle strette con tutte le varie declinazioni delle possibili occorrenze negative che possono accadere in una diretta. Cosa dici, Stefano? Dico che è abbastanza incredibile. Cioè, non va neanche il... Comunque, per esperienza, il bello della diretta è che a un certo punto finisce la diretta, quindi qualsiasi cosa succede, a un certo punto la trasmissione finisce e i problemi finiscono anche i problemi che ci si trascina dietro, quindi c'è una speranza. Sì, c'è tra circa una quarantina di minuti, esatto, quindi insomma... Il tempo per rimettere a posto le cose, secondo me, allora, può esserci ancora. No? Beh, non si sente niente? Ops. Allora mando un po' di nastrone. Mandiamo un po' di nastrone, non saprei cosa dirti. Ok. Prova un po' qua. Stop giving me grief. Ed eccoci ritornati in diretta con questo rocambolesco 249esimo Coxo, che vede come tema della trasmissione casa, un progetto che ha diverse possibilità di interpretazione acronimiche e che ci viene presentato qui in diretta da Roberto Retturo, uno dei 6 fondatori. Abbiamo visto che questo progetto ha luogo realmente in una casa e che è strettamente connesso al territorio in cui agisce, nasce proprio per le urgenze che questo territorio ha fatto emergere come una riflessione sociale sull'abitare e l'essere in un luogo. La casa nello specifico è situata in una frazione di Ussita, eccola la terza gaffa e con questo siamo a posto, ed è stato agito nelle menti a partire dal 2016 e poi dal 2017 dai diversi componenti, i quali si sono associati a partire dal 2018 dopo una serie di primi interventi che hanno testato la possibilità di fare e agire il territorio a partire da una casa. Sì, volevo dire una cosa, diciamo che anche se il progetto si chiama casa, anche se noi fisicamente abbiamo preso veramente una casa che ha uno spazio all'interno del quale facciamo delle cose, abbiamo fatto degli incontri, abbiamo appunto fatto delle residenze d'artista, dei pranzi, dentro ci abbiamo parlato, ci abbiamo ballato, ci abbiamo dormito, ci sono 10 posti letto, e è una situazione che si presta a tante cose, ma in realtà per noi è solo un punto di appoggio per poter lavorare sul territorio. Cioè in realtà per noi il concetto di casa non è un concetto che riguarda la nostra casa, ma è un concetto che riguarda la casa nel territorio, la casa come situazione abitativa per le persone, diciamo. E quindi il nostro obiettivo non è tanto portare dentro casa le persone, ma far sì che le persone possano... Sì, che in realtà una casa, non una casa che abbia più del... insomma, meno dell'appartamento in un quartiere staccato dal terreno, insomma, ci sono tante case che sono per lo più cubicoli in cui tu entri, non hai contatti con chi ti circonda e le varie cose che capitano. Qui si tratta invece di una casa aperta, in piena relazione con il proprio ambiente. Sì, questa è assolutamente una casa aperta. E... come probabilmente in quei paesi erano le case delle persone che sono state invitate per la propria sicurezza ad abbandonarle. Sì, questo sì. Quindi tornando a noi, e ti ringrazio per la precisazione che sicuramente ha fugato ogni dubbio e mi ha permesso anche di fare la mia terza gaffa, così siamo a posto e via dicendo. Quindi nel 2018, un anno fa, sì, l'epicentro di questa desiderio, mi è piaciuto come l'hai nominato prima, che eravamo prima di cominciare la trasmissione, sì, l'hai chiamato desiderata. Sì. I desiderata di diverse persone, sai nello specifico, che si sono trovati ad attraversare dopo i fatti del 2016 il territorio, a riviverlo ad attraversarlo, ad esserci presente, che si sono questi desiderata che si sono materializzati in immaginario, hanno trovato finalmente un luogo dove potersi riversare e rientrare in circolo in qualche modo nel territorio stesso. Sì. Quindi questa casa da dove viene? E come l'avete presa? Ma è una casa privata che noi abbiamo preso in affitto. Facciamo un piccolo recap dei chi siete. Noi siamo appunto 6 persone, in realtà all'inizio del progetto eravamo in 5, eravamo io, Chiara, Patrizia, Cristian e Fabio, poi si è aggiunta Federica, che è una ragazza di Macerata. Noi appunto siamo, io sono l'unico in realtà non marchigiano, sono calabrese, ma sono una sorta di marchigiano adottato, perché negli ultimi 2 anni mi sono totalmente innamorato di quelle terre, di quelle montagne. E Patrizia, come raccontavo prima, è una persona che vive a Ussita, mentre altre 3 persone, io, Chiara e Fabio, viviamo qui a Bologna, ma di fatto ci spostiamo spesso ormai nel... Ed infatti appena avremo predisposto meglio i desiderata, molto probabilmente avremo un collegamento telefonico con altre 3 delle persone che... Sì, con alcuni, con gli altri abitanti, con altri abitanti che sono già lì, che sono già lì, dove tu fra l'altro andrai, anzi hai ritardato la partenza per essere qui al Cox, e noi ti ringraziamo un sacco. Sì, prego, sento, è un piacere. A che ora ce l'hai la partenza domani? Alle 6:30. Ci ringrazierai meno. No, sono mattiniero per fortuna. Sì, noi arriviamo, ad esempio io e Chiara, siamo arrivati sul territorio perché appunto avevamo il desiderio di dare una mano a distanza. Abbiamo organizzato nel tempo della raccolta di materiali da un lato, e viceversa dei gruppi di acquisto solidale su aziende che producevano e producono prodotti locali, dalle famose lenticchie alla rovea, qualsiasi altra cosa. Patrizia è una persona che è sempre stata in qualche modo lì, e fin dal primo giorno ha lavorato, se vogliamo, sul territorio, pur se in principio per una questione quasi di sopravvivenza propria, ma poi in qualche modo ha avuto la necessità di trovare altri compagni, diciamo, per poter portare avanti questa sua necessità personale. Ti dicevo, io e Chiara, ad esempio, abbiamo iniziato questo percorso a distanza, poi però abbiamo deciso l'anno scorso di fare un vero e proprio cammino all'interno del parco dei Monti Sibillini, e a piedi abbiamo attraversato, oltre che camminare in alta quota per le vette più alte, più belle del parco, abbiamo attraversato anche molti centri, e l'abbiamo fatto grazie a tutti i contatti che avevamo trovato durante l'inverno, nel cercare di fare questi gruppi di acquisto e nel cercare di dare questi aiuti. Quindi la necessità di, per noi due, ad esempio, la necessità di essere più presenti sul territorio è nata così, è nata camminando, fondamentalmente camminando, scambiandosi delle mail, mentre ad esempio, come ti dicevo, Christian è già più sul territorio, perché lui è di Camerino e faceva, attraverso questa associazione che si chiamava Io Non Crollo, una raccolta di materiale, ed è stato anche lui è stato più presente. Fabio, che conosciamo entrambi, è un montatore video che nei giorni del terremoto lui era sul territorio, perché era a origini proprio in quelle zone lì, proprio di Frontignano, e quindi anche lui ha avuto una sorta di necessità fisica, diciamo che le emergenze, possiamo dire che questa emergenza, questa necessità di cogliere la straordinarietà di quello che stava succedendo e che tuttora succede, l'abbiamo colta tutti in questo modo, in tempi differenti, però quelli che sono un po' i temi che ci interessano sono anche quelli che sono un po' comuni a tutti, per cui un discorso legato sulla comunità, un discorso legato sul rapporto con non solo con le persone, ma anche con i luoghi intesi come montagne, intesi come natura, intesi come flora e come fauna, sono tutte cose che ci hanno portato nel giro di un anno a coltivare una serie di rapporti, di esperienze, di fatti concreti. Questo coxo è troppo serio. Proveremo a alleggerirlo. This coxo is too serious. Ottima pronuncia. Ma a parte la fatina di Google Translate che ci aiuta sempre, sì. Io volevo chiederti, e magari brevemente, che poi potremo provare, sì, a ritentare questo collegamento telefonico, sì. Volevo chiederti il primo evento che avete organizzato. Il primo evento che abbiamo organizzato, diciamo... E che ha inaugurato questo sodalizio con... In realtà non c'è stata una vera e propria inaugurazione, perché noi prima di prendere la casa, che è il luogo dove stiamo adesso, il proprietario, che è stato molto carino, ha ristrutturato proprio quello spazio prima di consegnarcelo, ci aveva dato un'avanzarda, per cui ad esempio già l'anno scorso a Capodanno noi eravamo circa 14 persone che abbiamo fatto una cena, abbiamo dormito lì, chi in camper, chi in questa mansarda, e già lì si è creata una fortissima relazione con le persone che erano del territorio e allo stesso tempo con le persone che erano venute da fuori. Sono persone che sono venute dalla Lombardia, c'eravamo noi da Bologna, c'eravamo altre persone. quindi quello è stato ad esempio un primo evento. Un evento un po' più ufficiale è stata la residenza di Lorenzo God Bless Computers, che all'interno di un progetto organizzato dall'Arci Macerata e Arci Ancona, finanziato dalla SIAE, ha fatto una residenza di circa una settimana, insieme contemporaneamente ad altri artisti che erano sul territorio in altre località. E è un progetto che si chiama 10 Hertz, mm-hmm. Che speriamo che si possa replicare l'anno prossimo. Oscar Moroni. Ottimo. È il nostro ascoltatore, okay. Quello che ci ascolta da 5 anni. Ah, ok, il famoso che avevo anticipato. Sì. Benvenuto. Ciao Fuga per Art. Ciao Oscar. E in quel caso lì Lorenzo è stato messo la casa non è stata soltanto il luogo che ha accolto Lorenzo per questa residenza, ma è stata anche se vogliamo chiamarla così, la piattaforma, attraverso la casa piattaforma, mi piace, attraverso la quale Lorenzo è entrato in contatto con le persone, attraverso la quale Lorenzo ha potuto raccogliere del materiale, non solo dei soundscape che ha utilizzato per realizzare un brano, ma anche delle interviste che sono state poi da lui editate e montate all'interno di questa suite di 20 minuti che ovviamente si potrà ascoltare dal sito portodimare.it, Porto di Montagna, ecco, ma... è la quarta gaffa, tantissimo. Mamma mia. Purtroppo no, perché Lorenzo ancora non ha pubblicato per vari motivi che non sto a spiegare questo brano. Comunque in ogni caso dovrebbe essere di imminente pubblicazione. Poi ci sono state anche altre tipologie di eventi che sono accaduti. Ad esempio un festival che è nato qui a Bologna, Itaca, Festival del Turismo Sostenibile. Sì. E si è incontrato, ha avuto una tappa proprio da noi a Frontignano, però abbiamo deciso di organizzarla nel giorno in cui proprio ad Ussita, e appunto di cui Frontignano è una frazione, ricordiamolo per non fare troppa confusione, c'era una tappa di un cammino che si chiama il Cammino delle Terre Mutate. Wow. Che è un cammino che ogni anno il Movimento Tellurico organizza per attraversare quelli che sono i territori nel centro Italia colpiti dal terremoto. Tanti anni fa partirono con un percorso da Assisi fino all'Aquila, poi chiaramente dopo il 2016 hanno evidentemente sentito la necessità di passare anche per le zone della Valnerina delle Marche, e quindi questo incontro ha fatto sì che i camminatori e gli addetti ai lavori di Itaca potessero conoscersi e confrontarsi, e volendo lavorare sul territorio abbiamo coinvolto anche la Proloco di Ussita, che ha organizzato una cena, un aperitivo, ha organizzato un incontro con un poeta pastore che vive lì a Ussita. E quindi diciamo il nostro obiettivo, come ti dicevo, non è soltanto quello di convogliare le persone e creare delle attività dentro la nostra abitazione, ma in realtà far sì che la nostra abitazione sia un luogo dove possiamo dimostrare che è possibile abitare quei territori, e che paradossalmente lo stanno facendo persone come me, come i miei compagni, che in realtà prima non avrebbero mai pensato di fare questa cosa, ma che riconoscono in questa straordinarietà del contesto territoriale in cui ci troviamo adesso, che è un contesto dove anche solo in qualche modo avere un bar aperto è un qualcosa di straordinario. Il bar all'inizio non c'era, è stata data una collocazione provvisoria, come sono state date delle abitazioni provvisorie agli abitanti, a queste persone che gestivano un bar, e adesso c'è un bar. Si sta lottando per cercare di aprire anche una zona di attività sociali che vada oltre le singole attività delle associazioni come la nostra, come la Proloco, che lavorano sul territorio, ma si sta soprattutto innescando un discorso molto più complesso di cui finora non ho parlato, che riguarda proprio Frontignano. Frontignano è questa frazione di Ussita, si trova a 1300 metri di altezza ed è una frazione che è alle porte degli impianti di risalita che portano alle piste di sci. Mm-hmm. Quindi in realtà Frontignano ha una storia molto particolare, legata a un turismo che ha avuto anche una sua forte presenza negli anni 70 e negli anni 80, e che era da un certo punto di vista in declino negli ultimi anni, ma che si è bruscamente interrotta con il terremoto. Le piste, gli impianti di risalita non possono essere utilizzati perché non sono ancora stati rimessi a posto, i finanziamenti ci sono, ma c'è una burocrazia che, come per qualsiasi cosa in quelle zone, sta rallentando anche la normalizzazione di questi impianti. E nonostante noi possiamo essere in qualche modo visti come, diciamo, degli ambientalisti o dei difensori della natura a tutti così, in realtà siamo molto interessati a questo argomento perché riconosciamo che le attività economiche intorno alle quali Frontignano nasceva e si sviluppava devono assolutamente essere ripristinate. Sì, io non vi vedrei tanto come naturalisti, sinceramente. No, chiaramente, però finora ti ho parlato di alcuni progetti più legati, più magari di carattere, se vogliamo, culturale o comunitario. Mm-hmm. In realtà altri argomenti legati più nello specifico appunto alla natura, legati più al parco. Noi ci troviamo all'interno di un parco nazionale, quindi sì, un parco, era stato parco citato nazionale dei Monti Sibillini, quindi che è una biodiversità molto particolare. Quindi ci interessa comunque molto cercare di capire laddove adesso non ci sono più delle situazioni territoriali, come appunto la cosa che mi piace di più, ritornando alla questione del nome fortunato del progetto, sì, è che la tua preoccupazione mi sembra proprio quella di chi abita in un posto e vuole avere il bar per andarsi a bere un caffè e incontrare altre persone, magari leggersi il giornale, scambiare due chiacchiere, vuole avere un luogo dove poter andare, uscire di casa, per quanto la propria casa poi rimanga anche un luogo, un porto di montagna. Mm-hmm. E da poter far agire per creare più che altro socialità, dialoghi. Sì, in realtà a noi interessa qualcosa che va oltre. Cioè, ti faccio forse dammi un indizio che forse entro la fine della puntata ci arrivo. Redazione di comunità. Abbiamo creato, attraverso un progetto finanziato dal MIBACT e sostenuto da un'associazione di Ancona che ci ha chiamato perché aveva bisogno sul territorio di una realtà che potesse fare, anche in questo caso, da piattaforma, una parola che ho utilizzato anche prima. E abbiamo creato una redazione di comunità attraverso la quale stanno in realtà, noi stiamo dando solo una mano, realizzando una guida del territorio, una guida ma locale. Siamo sicuri che vogliamo dire tutto subito e non proviamo a farcelo raccontare anche dai tuoi colleghi abitanti? Sì, l'angolo della menzione. Ti ho interrotto con l'angolo della menzione, ho trovato una menzione che dovevo menzionare. Poi ce l'hai però il branino di Stack da mandare? Il branino di Stack da mandare ce l'ho. Ok, dopo. Adesso ce l'ho, è una parola grossa. No, ma giovedì Stack. 17 gennaio alle ore 21 il Four Season Trio sarà al Macondo in via del Pratello. È la prima volta per loro in questo storico locale che faranno musica dal vivo. Il concerto comincia alle ore 21. E poi? Ah no, poi volevo anche dirti una cosa, già che ti ho interrotto, scusa. Sì. Gli MP3 del tuo amico sono difettosi. Non so se a casa tua riuscivi a suonare. Sì, li ho sentiti tutti. Ah, allora funzionano, sono degli MP3 che funzionano solo con dei Mac. Ok. Perché, come hai sentito, quindi avevo messo Stack la colonna. Quindi non potrà essere ascoltata all'interno di questa puntata. No, assolutamente, perché quegli MP3 lì non funzionano. E allora io mando un altro brano di quelli che mi hai caricato tu. Ecco, ma fai così. Io spengo la musica di sottofondo. Grazie. L'ho spenta. Metto un jingle. E però non parte neanche. Non ci credo. È in play, il volume è su. Aspetta che facciamo così, guarda. Dove... Ecco. Il nostro spaziale non l'ascolterò mai. Rimetto quello di prima. Jimmy got soul and mimic. It's not quite right. He must be a cynic. Sign on the walls, always grinning. Coming to my time, come see me. Sucker to me, sucker to Timmy. I'm yours, I'm yours. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama's still giving me breathing. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama's still giving me breathing. Why does the blood of a stick to your teeth? Mama, stop giving me grief. Mm-hmm. be sweet. Yes, I'm cooking for my son and his wife. Mom, isn't it? I don't give a flying fuck about. Riccardo Lolli, Oscar Moroni, Mario Bonato. Love is sweet. You were born in the 60s. We made the war with the Vietnamese. We love LC, we die easily. Do you have a headache or a heartbreak? I'm the broken by the birthday cake. You and the soul on the uptake. I put a pot in the birthday cake. Ricardo Lolli, Oscar Moroni, Mario Bonato. Extra sugar, extra salt, extra oil, energy. Extra sugar, extra salt, extra oil, energy. It's very sweet. Wow, Stefano, siamo riusciti a mettere un brano, che meraviglia! Abbastanza incredibile. Cox spaziale. Ricordami un po' il numero di questo Cox. 249esima puntata. La 249esima puntata in diretta con Roberto Rettura, interamente dedicata a casa. Cosa accade se abitiamo, se ci aggreghiamo, se ascoltiamo, ad esempio ascoltiamo, assaporiamo, no, assaporiamo è un po', se accogliamo, no, vabbè, c'è anche da assaporare da quelle parti, lascia pur fare, sì, sì. E siamo anche misticamente riusciti a chiamare un'altra cofondatrice di questo progetto, Patrizia, che sei con noi? Sì, sono con voi. Buonasera a te, buonasera a tutti. Benvenuta. Ciao, a Rob. Benvenuta. Ciao. A Fox. E tu sei già lì e le voci ci dicono che fra l'altro sei in mezzo a una nevicata. Corrisponde a verità? Corrisponde a verità, sì. Siamo in mezzo alla magica neve invernale dei nostri Monti Sibillini. Ok, insieme a Roberto abbiamo fatto un po' un attraversamento dei perché, dei per come e dei come che sono avvenuti l'anno scorso, prima e durante l'assegnazione, l'identificazione di questo luogo reale che nel quale poi vi siete trovati a convivere. Con te vorremmo approfondire un pochino questo nuovo progetto che Roberto poco fa ha un pochino anticipato, già a partire dal nome, che per non sbagliare la dicitura lo farò di nuovo dire a lui. Di cosa stavamo parlando? Stavo parlando di una guida realizzata con una redazione di comunità. Ecco, ti passiamo la parola, Patrizia, e ci racconti un po' di cosa si tratta? Sì, certamente, è un'esperienza che abbiamo iniziato lo scorso ottobre insieme ad un'altra agenzia artistica che si chiama Cineglossa. L'idea è quella di scrivere una guida turistico-culturale che però ha delle caratteristiche particolari, e cioè che questa guida deve essere appunto scritta, composta, realizzata, insomma costruita giorno dopo giorno da una redazione di comunità, quindi una redazione fatta da persone che vivono a Ussita o da persone che magari hanno delle seconde case a Ussita o avevano delle seconde case e che quindi comunque hanno a cuore un po' quella che era la vita e la storia di Ussita. La caratteristica di questa guida è che parte, diciamo, da dei presupposti precisi, ha un po' dei paletti che sono passato, presente e futuro. In questo momento siamo ancora, diciamo, nella fase di raccolta delle informazioni. È un percorso molto molto interessante perché di fatto poi insieme a tutte le persone che appunto fanno parte della redazione, che hanno anche delle fasce di età veramente molto molto trasversali, da ragazzi più giovani a persone più anziane, abbiamo affrontato tutta una serie di temi emersi diciamo durante queste chiacchiere, durante questi momenti di confronto. Posso farti una domanda? Certo. Quante persone siete riusciti a intercettare? Guarda, non vogliamo essere troppo ottimisti, come si dice, però è bello perché incontro dopo incontro le persone aumentano, perché un po', diciamo, anche noi li coinvolgiamo parlando di questa cosa al bar, per cui nell'ultimo incontro poi era presente anche Rob, per cui eravamo circa dai 25 alle 30 persone, che per una comunità piccolina come la nostra comunque possiamo ritenerci più che soddisfatti, insomma, di questo tipo di lavoro. E poi hai nominato il famoso bar che è finalmente ritornato. Sì, esatto, è un bar, diciamo, che vabbè, ha riaperto già da diciamo un annetto e mezzo e che di fatto però è uno dei, diciamo, pochi, forse l'unico insieme ad un altro ristorante che è stato sempre aperto anche durante il sisma, il punto un po' di aggregazione del paese, e quindi è lì che poi avvengono le chiacchiere, è lì che si trovano le informazioni. Abbiamo realizzato anche delle piccole, grazie ad un nostro amico che si arrangia nel bricolage, abbiamo realizzato anche delle piccole cassettine che abbiamo lasciato, una al bar e un'altra nelle nostre nuove soluzioni abitative di emergenza, nelle aree dove abbiamo le nostre casette, dove possiamo magari, chi non vuole partecipare, chi non ha voglia ma magari vuole comunque dare un contributo, in queste piccole cassettine abbiamo raccolto una serie di testimonianze e di racconti in modo tale da far crescere sempre di più, diciamo, quello che è il contenuto della guida. Attualmente appunto siamo ancora in una fase di raccolta e è molto interessante le cose che stanno emergendo, perché per esempio uno dei temi che abbiamo approfondito e abbiamo affrontato raccontava di quelli che potevano essere i tempi d'oro del nostro paese, che è stato individuato in due momenti specifici, diciamo, della nostra storia. Uno era negli anni 50, quando l'economia e quello che, diciamo, reggeva il nostro paese era legato ovviamente alla pastorizia, poi con gli anni 60-70 il boom, diciamo, economico e del turismo, abbiamo un po' deviato verso appunto quelle che sono le attività più legate a impianti di risalita, impianti sportivi, e quindi è stato anche molto interessante analizzare questi due momenti, anche perché l'obiettivo di questa guida, che sarà nell'ultima fase, è quella anche di lavorare un po' sulle visioni, no? Sul futuro, su come vorremmo che il nostro paese, che la nostra piccola comunità diventi. Quindi abbiamo chiesto aiuto ad uno storico amico, Augusto Ciuffetti, che avevamo incontrato in altri momenti, e quindi abbiamo analizzato come appunto dalla storia è possibile capire anche quali possono essere le economie per ripartire. È veramente un esercizio molto interessante anche per noi che lavoriamo, diciamo, su questa guida, perché ogni volta escono delle suggestioni molto molto belle, molto molto particolari, e che sono spunto per noi poi per lavorare anche su quelle che possono essere un po' le necessità delle persone, insomma, nella nostra piccola comunità. Nel sentirti parlare mi hanno attraversato moltissime suggestioni, ci vorrebbe un'altra puntata per approfondirle. E infatti io non lo so se Roberto te l'aveva detto, forse non lo sa neanche Roberto, ma in quanto ospiti del Coxo siete legittimamente coxonauti e siete, se non invitati, costretti a ritornare prima o poi a raccontarci più nel dettaglio quello che realmente è stato e come questi sogni anche poi avranno continuato a replicarsi e riprodursi e sviluppandone altri. Oppure portiamo il Coxo Spaziale a Frontignano, a casa. Ah, visto ecco, che potrebbe essere un'idea. Il nostro obiettivo è anche quello di accogliere. Possiamo anche accogliere una puntata di Coxo. Attento che noi ci veniamo, mi stai pure a guardare sugli occhi, sono pure dei testimoni. Sì, sì. Allora, Patrizia. Però d'inverno con la neve dovete venire. Sì, volentierissimo. Okay. Patrizia, appunto, a proposito di neve, so che ti ho beccata per la strada, quindi ti ringrazio tantissimo per questo intervento. Ti invito ovviamente a tornare. Grazie a te. E ti auguro buon rientro. Grazie mille. Un saluto a tutti gli ascoltatori e con Rob ci vediamo domani. Eh sì, vi arriva domani nella neve. Perfetto, buona serata a tutti. Grazie mille. Ciao Patrizia. Ciao. E quindi questa è stata una delle sei voci che bene o male hanno collaborato per realizzare il progetto di cui stiamo parlando. Metterei un branino, vediamo se me lo fa andare, e poi tornerai per i saluti e magari un piccolo riepilogo, un appuntamento. Sì, una lettura se me la concedi. Sì, volentierissimo. Giustamente, quella volta che il brano parte, noi siamo stretti coi tempi e quindi bisogna interromperlo. E il 249esimo Coxo, dedicato a casa, di cui non dirò l'acronimo perché se vorrete vederne le varie declinazioni vi dovrete connettere su www.portodimontagna.it oppure su www.coxospaziale.blogspot.com, che da domani riprodurrà tutto il silenzio che troviamo all'inizio di questa trasmissione. Sì, e poi tutti i link per approfondire le foto. Ci sono persone da salutare. C'è Rocco Cristofaro che ti manda il saluto al dottor Roberto, che sei tu. Ciao Rocco, ti chiamo dopo. Okay. Io invece posso mandare a fanculo uno a Fancoxo, per favore. Dai, no, cioè sì. L'unica vabbè. No, comunque no, abbiamo un ultimo intervento, una lettura, un testo che è nato proprio in quei luoghi, giusto? Più o meno, diciamo che facciamo che lo leggo prima. Facciamo così? Ti va bene questa musica di sottofondo? Preferisci il silenzio? Va bene, non la sento però, quindi va benissimo. Ok. Quando dovevamo assolvere un compito difficile, andavamo in un certo posto nel bosco, accendevamo un fuoco, dicevamo le preghiere e ciò che volevamo si realizzava. Quando una generazione dopo ci trovammo di fronte allo stesso problema, ci recammo in quel posto nel bosco. Non sappiamo più accendere il fuoco, ma possiamo dire le preghiere. E tutto avvenne secondo il nostro desiderio. Ancora una generazione dopo ci trovammo nella stessa situazione. Andammo nel bosco e qualcuno disse: non sappiamo più accendere il fuoco, non sappiamo più dire le preghiere, ma conosciamo il posto nel bosco e questo deve bastare. E infatti bastò. Ma quando un'altra generazione trascorse e dovemmo misurarci ancora con la stessa difficoltà, ci sedemmo davanti alle nostre case e qualcuno disse: non sappiamo più accendere il fuoco, non siamo capaci di recitare le preghiere e non conosciamo neanche il posto nel bosco, ma di tutto questo possiamo raccontare la storia. E ancora una volta questo bastò. Questo è un testo che ha utilizzato Leonardo De Logu, che è un attore, un artista che si è occupato negli ultimi anni di moltissimo di arte partecipativa, e ha realizzato un festival vicino Frontignano a Preci, che è giusto un paesino che sta al di là Leonardo delle Marche. Leonardo De Logu. Esatto. Pronuncia giapponese ce l'abbiamo? Sì. Vai. Leonardo De Logu. Ah, sì. e ha realizzato questo festival in collaborazione con tutta la comunità di Preci. È stata un'esperienza molto bella che è durata un anno e ci ha fatto molto piacere conoscere Leonardo. Io in realtà lo conoscevo nelle vesti di un attore tradizionalmente tra virgolette più tradizionale, però insomma ha utilizzato questo testo in qualche modo per descrivere il modo in cui la storia dei luoghi cambia e il modo in cui alcune cose comunque si possono mantenere. È un testo che ci è piaciuto tanto, che ci sta in qualche modo aiutando anche a capire come procedere con il nostro percorso di casa e come procedere nello specifico con questo progetto della guida di cui abbiamo parlato. La prossima volta che tornerai, che dovremo fare comunque un recap del progetto, presentarlo di nuovo, mi piacerebbe che cominciassimo proprio con questo testo. Va bene. Come siamo d'accordo? D'accordissimo. Ci rivediamo tra 4 mesi? Sì. Ok. Riccardo Lolli, Oscar Moroni, Mario Batacchi. Ciao. Ciao. Ciao.